ti guardo e tu immobile, osservi dalla finestra l'unica goccia di pioggia rimasta. Sospesa è proprio sublime, soffice attimo, candido e puro istante. Sospesa.